le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Expo è dunque iniziato, code ai cancelli, il Papa dice porto la voce dei poveri e di chi ha fame, Renzi, oggi è la risposta ai professionisti del non ce la farete mai. Attesa per la manifestazione del pomeriggio di chi contesta appunto l'Expo, un migliaio di persone, soprattutto dall'estero, sarebbero pronte a dare battaglia. Primo maggio, CGIL all'attacco, dal governo solo propaganda, Mattarella, confido nel dialogo, manifestazione dei sindacati a Pozzallo per l'emergenza immigrazione. Almeno 5 miliardi di euro, e questo è il conto della sentenza della Corte Costituzionale sullo stop alla rivalutazione delle pensioni deciso dal governo Monti. La vicenda incredibile di un commissariato di Bologna dove un uomo si è finto poliziotto per giorni lavorando, accedendo ai fascicoli e dando ordini. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che inizia in un orario lievemente inconsueto, sono le 13.07 perché naturalmente c'è stato lo speciale, come avete sentito, sulla giornata inaugurale di Expo 2015. Naturalmente anche in questa edizione di Effetto Giorno tratteremo di Expo, sarà il nostro argomento di apertura, ci dedicheremo un approfondimento e però tratteremo come sempre in questa sede anche altre notizie. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la pagina della trasmissione sul sito www.radio24.it, durante la diretta il numero di SMS, il 349-238-6666. Vediamo se riusciamo ad iniziare con un audio, un coro, il coro a cappella con il quale è stato eseguito l'inno d'Italia oggi. Siamo pronti alla vita, l'Italia ti amò. E questo dunque un coro, gli alpini insieme ai bambini per dare l'avvio a questa manifestazione. Iniziamo dalla parte ufficiale dell'inaugurazione, facciamo un punto con il nostro Gigi Donelli, inviato nell'area di Expo. Gigi, eccoci di nuovo in realtà, perché sei stato in diretta parecchio questa mattina. Simone, un saluto ancora, una diretta effettivamente lunga con grande piacere, perché insomma, come sentite, mi sto allontanando dalla fanfara dei carabinieri che è molto potente, ma decisamente una bella manifestazione. Tra l'altro, in un collegamento precedente mi ero preoccupato per il passaggio delle frecce tricolori e sul fatto che potessero passare sotto la coltre delle nubi. Beh, effettivamente non mi rendevo conto di quanto siano capaci di volare bassi, perché circa 4 minuti fa sono passati sul teatro e si sono fatti notare, e come. Senti Gigi, allora io inizierei a far sentire ai nostri ascoltatori qualche voce di questa mattinata, di questa mattinata di inaugurazione, e inizierei dai saluti iniziali di Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano, e vediamo se ce l'abbiamo pronto. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Milano si è svegliata oggi con uno straordinario primo maggio. Quasi liberatorio, Gigi, direi. Gigi Donelli o le frecce Eccoci tricolori? Qua. Ripassati in questo momento. Sono ripassati in questo momento le frecce tricolori. Allora Gigi, diciamo quasi liberatorio questo ce l'abbiamo fatta di Pisapia. Assolutamente sì, direi che Pisapia come sala, insomma, degli interventi in cui emergeva anche un po' tutta la storia umana. Tra l'altro dovete tenere presente che oltre le primissime file, le autorità, gli ambasciatori eccetera, ma di fatto lo spazio qui è gremito in gran parte dalle persone che hanno lavorato e realizzato questo luogo, e questo si avvertiva, insomma, quando sono stati citati hanno risposto con grandi applausi. Allora possiamo sentire anche probabilmente una voce del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lo avete sentito anche nello speciale, ha appena finito di parlare, ha ufficialmente dato l'avvio ad Expo, e sentiamo come ha iniziato il suo discorso, tra l'altro riprendendo proprio questo piccolo cambiamento che avete sentito nel nostro inno per come è stato eseguito questa mattina. L'Italia si è desta, siamo pronti alla vita, sì, siamo pronti alla vita e siamo pronti a dire benvenuti. Benvenuti a tutte le autorità, benvenuti ai cittadini, benvenuti a tutti coloro ai quali in questi mesi vedranno una Milano particolare. Ma innanzitutto, il 1° maggio, partiamo dicendo grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Eravamo qui e non ci credevano in tanti. Grazie al vostro sudore oggi l'Expo è una realtà. Non è ancora una scommessa vinta, abbiamo 6 mesi per vincerla, ma è una scommessa che possiamo fare. Dal lavoratore senza nome, così lo ha chiamato il Papa, alle persone che stanno fuori da qui a garantire la sicurezza, le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, fino, lasciatemelo dire a te Beppe, grazie per il tuo lavoro, orgogliosi di ciò che hai fatto in questi mesi e che faremo nei prossimi 6. Dove Beppe, naturalmente Beppe Sala, il commissario unico di Expo. Gigi, che altro ha detto Renzi? Ma dunque, Renzi ha parlato 10 minuti secchi, tondi, cronometrati, quindi ha parlato naturalmente, diciamo che è stata un po' l'occasione anche per riprendere un po' quello che ormai conosciamo come i temi classici di Matteo Renzi, quindi la proiezione in avanti, quindi la chiamata in qualche modo ai dissidenti, si sono sentite ombre in cui si parlava di Expo ma anche di politica più parlamentare, insomma l'invito a rimettersi in sostanza in squadra, almeno questo ci è apparso. Naturalmente anche lui ha parlato a lungo della capacità, insomma ha fatto poi il suo ruolo ufficiale promozionale di Presidente del Consiglio per un evento che, non dimentichiamolo, è un importante evento turistico. 10 minuti secchi in un discorso in cui questi due elementi si sono accompagnati, direi. Non ritualissimo tra l'altro il ringraziamento all'allora sindaco di Milano Letizia Moratti, che è stata, come dire, pubblicamente chiamata anche ad alzarsi in piedi, ha ricevuto un applauso perché fu lei ad avere appunto l'intuizione di Expo. Io ti ringrazio intanto Gigi, suppongo che ci sentiremo nell'arco di questa giornata, e voglio salutare invece Laura Bettini che è in giro per Expo e quindi ci può dare un po' il polso di quello che succede. Laura, eccoci, buongiorno. Simone, buongiorno. Simone, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Io sto cercando di raggiungere queste biglietterie lato metropolitana per le quali mi sono state segnalate lunghe code per dei problemi nella stampa proprio dei biglietti d'ingresso. Adesso io non so bene quale sia stato il problema e quindi è lì che mi sto dirigendo, ma come dicevamo negli scorsi collegamenti l'area è molto ampia, molto lunga e quindi ci vuole un po' a raggiungere le postazioni, no? Non perdo le speranze. E quindi su questo naturalmente avremo dettagli maggiori da te più tardi. Il resto di Expo, insomma, è chiaro, l'area è enorme, non l'hai potuta visitare tutto, hai potuto dare un'occhiata, però ci sei stata anche nei mesi scorsi. Che cosa ci puoi dire? Sicuramente la parte centrale, quindi Card e Decumano, sono a posto, come era stato del resto promesso anche dal commissario Sala in più occasioni. E se ci si inoltra un pochino, si va un po' più sul dietro dei padiglioni, allora lì si vede che c'è ancora dei lavori da completare. Non parlo solo del padiglione Italia, parlo anche di altri padiglioni o comunque di rifiniture che sono magari i bordi verso la strada, togliere pezzi di cantiere, ripulire. Penso anche all'area attorno al famoso albero della vita, che non è particolarmente accogliente in questo momento. Una giornata brutta non ci andrà nessuno a quel lago, ma se fosse stata una bella giornata, ecco, sicuramente non avrebbe fatto una bella impressione così come adesso, che si vede che è stato un cantiere fino a 2 giorni fa. Ci sono già in giro molti spettacoli, molte cose da vedere, molti padiglioni hanno già aperto, altri inaugureranno nel pomeriggio. Ho visto che ha un grandissimo successo il padiglione del Brasile, che ha un'enorme rete quasi da trapezista, per intendersi, su cui si cammina a sospesi e è pieno di gente che fa la coda per potersi arrampicare, come appunto una grandissima rete da pesca e ballonzola anche, quindi ci sono tanti bambini che si divertono con questa. Altri padiglioni belli ce ne sono a bizzeffe, e quando apriranno potremo anche dare magari qualche consiglio in più, ecco. Grazie intanto a Laura Bettini. C'è un altro tema che riguarda Expo in questa giornata di oggi ed è sicuramente l'allerta per i cortei e le manifestazioni di questo pomeriggio. Ne parliamo ma dopo il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Expo è iniziato, code ai cancelli, è festa, il Papa dice porto la voce dei poveri e di chi ha fame. Renzi, oggi è la risposta ai professionisti del non ce la farete mai. C'è attesa per la manifestazione del pomeriggio di chi contesta Expo, ne parleremo tra un attimo. Per il 1° maggio CGIL all'attacco dal governo, solo propaganda, manifestazione dei sindacati a Pozzallo per l'emergenza immigrazione. Almeno 5 miliardi in meno, questo è il conto della sentenza della Corte Costituzionale sullo stop alla rivalutazione delle pensioni. Raffaella Calandra, buongiorno, la nostra Raffaella Calandra, per fare un punto su quello che ci si può attendere questo pomeriggio. Raffaella, eccoci. Ciao Simone, eccoci, io sono praticamente arrivata in corso di Porta Ticinese, dove da piazza 24 maggio a breve comincerà la famosa e temuta manifestazione dei No Expo. L'area è già completamente blindata da molto prima, diciamo, ci sono camionette delle forze dell'ordine in assetto antisommossa, ma diciamo che soltanto nel pomeriggio si sveleranno quelle che sono le incognite che da mese tengono in stato di massima allerta le forze dell'ordine e fanno segnalare questa giornata tra quelle a più alto rischio, ossia quanti saranno i temuti anarchici venuti a Milano solo per azioni di violenza e quanto poi i manifestanti della My Day Parade, del corteo di oggi pomeriggio, ossia riusciranno a contenerli e a isolarli insieme ovviamente alle forze dell'ordine. Ecco, riusciranno, bisogna dire che ci sono 4.000 e più anche agenti che sono schierati in tenuta antisommossa, di sicuro però le perquisizioni preventive della Digos di questi ultimi giorni hanno confermato i timori, cioè che da Spagna, Germania, Francia, Grecia gruppi di antagonisti sono già in città, molti di questi stanno anche, molti dei manifestanti stanno campeggiando nel parco Trenno, molti di loro invece sono ospitati in quelli che sono considerati i vari covi anarchici più pericolosi della città, e tutto questo lo si desume da quanto è stato perquisito in questi giorni: i martelletti frangivetro, le masse ferrate, le maschere antigas, i coltelli e materiale che per realizzare molotov e bombe carta. E sequestrati, abbiamo anche già raccontato, sono stati sequestrati in covi di area anarchica, dove i gruppi più estremisti dei notab italiani si saldano con i bloc occupai europei, quelli che insomma hanno messo a ferro e fuoco Francoforte, ad esempio, contestando la BCE, e l'Expo ora ha preso il posto appunto della BCE o di altre grandi opere contestate in mezza Europa. Si parte, dicevamo, alle 14 da piazza 24 maggio, non si arriva invece a piazza Duomo, ma la paura è che piccoli gruppi, che è così com'è in genere la modalità di azione di questi anarchici, possano uscire dal corteo ufficiale per azioni brevi, violenti, e poi tornare a confondersi tra i 30.000 circa che si stima possano percorrere e attraversare le strade di Milano questo pomeriggio. Ovviamente vi racconteremo in corso d'opera quello che succederà. Ti ringrazio intanto, grazie a Raffaella Calandra. Veniamo a tutt'altro tipo di manifestazione, quella del 1° maggio dei sindacati, che si è svolta a Pozzallo, e c'è stata naturalmente anche una cerimonia al Quirinale. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come dicevi, si è tenuta a Pozzallo in Sicilia la manifestazione dei sindacati, un luogo di sbarchi. Infatti il tema era quello della solidarietà che fa la differenza, questo era lo slogan della manifestazione, quindi migrazione, immigrazione e lavoro. Ne hanno parlato i tre sindacalisti presenti, ma stamattina ne ha parlato anche il presidente Sergio Mattarella della giornata del lavoro. Ha detto: la disoccupazione è una ferita alla cerante per il paese, le difese corporative fanno male e frenano l'Italia, i giovani al sud sono la priorità. Poi ha ricordato Mattarella che creare le condizioni per avere lavoro è un impegno scritto anche nella nostra Costituzione. Sentiamo Mattarella. La nostra carta fondamentale indica un obiettivo che è anche un obbligo morale e civile: cercare costantemente di costruire le condizioni per allargare le basi del lavoro fino alla piena occupazione, perché il lavoro divenga la prima delle priorità. la prima delle priorità, quindi è una priorità, hanno chiesto che sia una priorità anche i tre sindacalisti confederali, Anna Maria Furlan della CISL ha detto che l'Europa non può essere egoista, deve trovare le condizioni, creare le condizioni per il lavoro. Susanna Camusso della CGIL ha parlato della questione immigrazione, poi ha detto che il diritto d'asilo è scritto nella nostra Costituzione, ha anche citato Expo dicendo che non c'è contrapposizione tra il 1° maggio del lavoro e Expo perché è un'occasione di sviluppo e crescita per il paese, ma è arrivata presto ai temi del lavoro criticando il governo, ha detto è solo propaganda. L'ossessione quotidiana dovrebbe essere esattamente quella di creare lavoro e di dare risposta alle persone, e per questo diciamo al governo: siete stati smentiti dai numeri duri, quelli reali, quelli che dicono ogni giorno che sono drammaticamente cresciuta la disoccupazione e la disoccupazione giovanile. E la giornata del lavoro si chiuderà come da tradizione con i concerti, il concertone di Piazza San Giovanni, sono attese 600.000 persone al 25° appuntamento, l'altro concerto è quello di Taranto dove sono attesi 100.000 spettatori, è la terza edizione di questo evento promosso dopo il sequestro degli impianti inquinanti dell'Ilva. Per ora è tutto. E grazie Valentina Furlanetto. Siamo a parlare adesso della sentenza di ieri, perché mentre in questa giornata si sottolineano giustamente i problemi del lavoro che non c'è, gli occhi sono puntati sulla tenuta dei conti pubblici dopo appunto la sentenza della Corte Costituzionale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Una sentenza che ha come primo effetto quello di vanificare di fatto il cosiddetto tesoretto da 1,6 miliardi sul quale contava il governo per ulteriori interventi di politica sociale, dall'allargamento della platea dei beneficiari degli 80 euro a misure di sostegno al reddito dei più bisognosi. Il buco che lo sblocco dell'adeguamento delle pensioni crea si aggirerebbe, secondo le prime stime, sui 5 miliardi, risorse queste da reperire in tempi brevi con la ragioneria dello Stato già per questo al lavoro. Stiamo verificando l'impatto che la sentenza della Consulta può avere sui conti pubblici, non sarà una prova facile, ma non siamo molto preoccupati, fanno sapere intanto da Palazzo Chigi. Ma come uscirne? Bocciata la linea di nuove tasse, si tornerebbe alla spending review, a quei tagli alla spesa pubblica facili da individuare, ma poi, come l'esperienza insegna, di difficile attuazione. Ma la sentenza della Consulta apre un capitolo ancora più importante: la sostenibilità dell'impianto pensionistico uscito dalla riforma Fornero. Prima il caso Esodati, ora lo sblocco dell'adeguamento al costo della vita, probabile a questo punto un'accelerazione verso la revisione dell'intero sistema, polemiche inevitabili allora da sindacati ed opposizione che su questo punto fanno fronte comune e dicono la legge Fornero va rottamata. L'ex ministro del governo Monti però commenta: non capisco la sentenza della Consulta. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e abbiamo con noi Giorgio Ambrogioni che è presidente di Federmanager, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che è una delle due associazioni che sostanzialmente ha portato a questa sentenza della Corte Costituzionale, perché siete voi che avete fatto ricorso, no? Noi e Manager Italia. Voi e Manager Italia, ma perché? Perché noi abbiamo reagito dopo di fronte al quinto blocco, parliamo di cinque blocchi dall'ultimi 14 anni. Abbiamo avuto cinque blocchi di perequazione automatica delle pensioni medio-alte. Al quinto abbiamo reagito. Il governo Monti è stato temerario, perché la Corte nel 2010 si era già pronunciata e aveva detto: attenzione, non potete continuare in questo modo bloccando l'adeguamento delle pensioni. Quindi lo sapevano. Però avete creato un bel problema, Ambrogioni. Noi non siamo egoisti, non siamo indifferenti a questo problema, però è anche vero che da tempo diciamo è ora di finirla di usare il sistema pensionistico come un bancomat per finanziare la spesa sociale o interventi pubblici. Sì, è vero anche, mi scusi Ambrogioni, che l'ultimo blocco, quello che poi ha portato alla sentenza, quella precedente, diciamo così, insomma, quella era un blocco che riguardava l'indicizzazione per un solo anno delle pensioni 8 volte il minimo. Quindi diciamo che tutto sommato, vista da una posizione come quella di un lavoratore normale, ci potrebbe anche stare. Ma infatti noi non abbiamo reagito a quei blocchi, Ma avete reagito a quelli del Salva Italia che prevedevano il blocco dell'indicizzazione all'inflazione per il 2012 e il 2013 per le pensioni a partire da tre volte il minimo. E però questa sentenza. Stiamo parlando di pensioni tutt'altro che d'ore, ora di finire questa retorica. Sì, sono pensioni a partire dai 1.400 euro al mese. Però questa sentenza ha un impatto anche sulle pensioni di molto superiori, anche sulle pensioni d'oro a tutti gli effetti. Ma guardi, qui oramai bisogna avere chiaro che le pensioni d'oro possono essere sia quelle molto alte, sia quelle molto basse, se non sono legate a una storia contributiva. Oramai questa demagogia bisogna azzerarla, perché non è affatto detto che una pensione alta sia regalata. Spesso sono pensioni medio-basse che godono dei vantaggi del sistema retributivo. Questo oramai è dimostrato, e Boeri lo sanno tutti, ed è per questo che anche i sindacati confederali sono molto cauti quando si mette mano alla riforma delle pensioni. Che via d'uscita vede a tutto questo lei, visto che insomma fa parte anche di un'associazione che si occupa di tutelare gli interessi di un gruppo economico, per così dire, appunto i manager? Che via d'uscita vede? Ma noi pensiamo che a questo punto il governo dovrebbe, come dire, tentare la via di una rateizzazione di medio e lungo periodo di quanto deve, e poi aprire un tavolo con noi su come rimettere in mano, non soltanto con noi ovviamente, al sistema previdenziale, se c'è bisogno. Secondo noi nel medio e lungo periodo il sistema è sostenibile. La ringrazio, grazie a Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e non è come di solito che c'è la borsa, perché è il 1° maggio e le borse sono chiuse. Ci ritroviamo subito dopo, ascolteremo altre voci da Expo. E poi vi racconteremo questa storia incredibile che vi accennavamo nei titoli, la vicenda di un finto poliziotto che ha lavorato in un commissariato per giorni, se non a quanto pare per mesi, un commissariato importante di Bologna, e se ne sono accorti appunto solamente dopo 3 mesi. A tra poco. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La scena si svolge in un commissariato importante, del centro storico di Bologna. Che cosa succede? Succede che, portato da un vero poliziotto, entra ed inizia a lavorare spacciandosi per un uomo dello SCO, del Servizio Centrale Operativo, una persona che poliziotto non è, e ci lavora per alcuni giorni. Al momento ci sono 2 indagati, iniziamo a sentire la voce del questore di Bologna, neo questore di Bologna, Ignazio Ciocca, in una intervista, in una dichiarazione rilasciata da alcune TV locali. Appena insediato, correttamente sono stato informato dell'episodio, era evidente che doveva essere immediatamente informata l'autorità giudiziaria per tutti quegli accertamenti che si stanno compiendo per capire il motivo e l'accertamento dei reati, diciamo così, prospettati. Parallelamente all'inchiesta di carattere giudiziario abbiamo attivato tutte quelle che sono le procedure, le valutazioni di carattere disciplinare e amministrativo per ricostruire la vicenda e individuare le responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti. Stiamo valutando il profilo disciplinare della vicenda e ovviamente il primo soggetto su cui, diciamo così, approfondire la posizione, ma già lo stiamo facendo, è il poliziotto, anche vedendo quelle che possono essere le possibilità di carattere cautelare. E ovviamente la vicenda verrà ricostruita in tutti i particolari per vedere quelle che sono le singole responsabilità, ripeto, dei personaggi coinvolti, delle persone coinvolte. Ed è il questore di Bologna, coccia e non ciocca, come detto erroneamente all'inizio. Sandro Chiaravallotti è il segretario per l'Emilia Romagna e pro tempore anche di Bologna del SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia. Chiaravallotti, buongiorno. Buongiorno. Ma com'è stata possibile una cosa di questo genere? È stata possibile perché è un... collega in questione è un graduato, non ha un grado inferiore, insomma è un sostituto commissario. I colleghi di fronte a una carica così elevata hanno avuto fiducia, qualcuno per fortuna ha fiutato qualcosa di sospetto, ha approfondito, ha fatto relazione di servizio e quindi le indagini e quant'altro sono andate avanti. Io spero veramente, anzi lo credo, che questo poliziotto sia severamente punito perché non merita altro. Uno, perché ha una qualifica altissima e una cosa del genere è assurda. Due, perché ha usufruito del suo grado per ingannare anche i colleghi, in questo caso come dire innocenti, perché si sono fidati di questo signore e ha fatto entrare per qualche giorno questo finto. Ma quanto è durata la cosa? Perché sui giornali ho letto cose contrastanti, perché alcuni dicevano 3 mesi, altri dicevano 10 giorni. Sì, 3 mesi è l'aggregazione del questore che dalla Sicilia del sostituto commissario che dalla Sicilia è stato aggregato a Bologna, però questa vicenda a giorni alterni, questo signore si presentava, l'ha presentato come ispettore, non è che è stato là permanentemente. Certo che è grave, attenzione, uno, due, anche uno, un giorno è grave. E questa persona che non si sa chi sia perché il nome non è uscito, ha avuto accesso ai fascicoli di indagine? Guardi, si raccontano tante cose, anche peggio di questa. Sta indagando la magistratura, cioè, mi consente. Scusi, sindacalista, io sono sempre un poliziotto, sì, a dire determinate. Ho capito, però se mi dice anche peggio, lei capisce che suscita la mia curiosità di giornalista. Peggio non nel senso che abbia preso atti in mano, peggio nel senso formale, ci sono delle leggende adesso. Certo è che se è stata una goliardia, cioè, comunque come dire, leggende nel senso che potrebbe non essere una cosa goliardica, per così dire, ma un interesse specifico per determinati casi, questo intendo. Io spero, sinceramente, su questo non so rispondere, dico la verità, sono una persona che dice la verità, oppure non risponde, però non so veramente rispondere. Spero che sia goliardica e comunque, anche se goliardica, è gravissima. È gravissima dal punto di vista anche disciplinare, per me andrebbe licenziato il sostituto commissario senza se e senza ma, perché ha fatto qualcosa di veramente impossibile. Va bene, lo deciderà la magistratura, sì, lo deciderà il ministro degli interni, è qualcosa di incredibile. Lei si pensi se ero io sono assistente capo, pensi se ero io a corpo di guardia a fare il piantone, questo mi entrava, io mi fidavo, ha messo in difficoltà l'amministrazione e me che sono un semplice lavoratore. È impossibile. Ma le posso chiedere una cosa, Chiaravallotti? Ma dal punto di vista pratico, ma non c'è controllo su una cosa di questo genere? Ho capito il grado alto, lei mi ha detto sostituto commissario, ma ci sarà stato un commissario sopra di lui o qualcuno che avesse il controllo di questa cosa? No, sono entrati qua, che colpa anche. Le faccio finta che è un piantone, facciamo finta su di lei, che lei è un piantone, ha una questura di qualsiasi città, entra il questore. Va bene, facciamo un diverso. Con una persona a fianco, che fa? Lo ferma? Come fa? Diventa anche difficile, no? Non capisco. Voglio giustificare, attenzione, vado sul carattere. Ma quindi dal punto di vista pratico, il sostituto commissario non ha mai incrociato il commissario, cioè la persona che era a capo del commissariato? Secondo me sì, lo hanno incrociato, e come? Io ci sono stato là, è un commissariato, qua c'è una responsabilità gestionale, nessuno la persona a capo, il commissario non ha mai detto, ma chi è questo? Ma evidentemente no, non conosco bene le dinamiche perché non sono permanentemente là. Certo. Io sto sentendo i colleghi che sono veramente agitati, dice ma com'è possibile una roba del genere? Il problema è questo: c'è un ufficiale, anzi un funzionario, perché è un sostituto commissario di polizia con un grado alto che ha fatto carico. Lo deciderà la magistratura, questo nel suo grado, nella sua posizione, ha fatto entrare una persona dicendo che è un collega, tra l'altro un ispettore, va bene, quindi grado altrettanto alto ed elevato, e si è seduto in mezzo ai colleghi, addirittura mettiamola a ridere, pare che abbia anche richiamato un collega, cioè, non so, ecco cos'è che parlavamo prima delle leggende, no? Pare che abbia anche detto a un collega devi stare più in ordine, roba del genere, ci ha giocato pure. Io spero che sia goliardia, cioè proprio da questo gioco è nato poi il sospetto, no? Perché evidentemente ha fatto lo sbruffone, certo. E qualcuno se ne è accorto e l'altro è stato stanato, quindi qua voglio dire merito al colleghi, no? Cioè, hai fatto lo sbruffone, ce ne siamo accorti. Io veramente la cosa più scandalosa è la gestione del commissariato, ma una persona sostituto commissario di polizia che fanno roba del genere, signore, va punito e nessun sindacato si permetta di mettersi in mezzo a dire come, quando, perché se la cosa ha la conferma va punito severamente. Per me, guardate, posso avere l'ira di tutti i colleghi, va anche licenziato, non mi interessa niente, perché ha usato il suo grado per fare qualcosa di ignobile. La ringrazio. Tutto sarà come dire, la ringrazio. Tutto corrisponderà, mi permette il condizionale. La ringrazio, la ringrazio. Grazie a Sandro Chiaravallotti, segretario Emilia Romagna e pro tempore anche di Bologna del SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia. Allora, abbiamo sentito all'inizio, abbiamo parlato di Expo ampiamente in apertura, adesso ci vogliamo tornare perché avete sentito le parole del Papa. Ebbene, alle 15.30 Gianfranco Ravasi, il cardinale, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e il commissario generale della Santa Sede inaugureranno con una cerimonia ufficiale il padiglione appunto della Santa Sede all'interno dell'esposizione universale Expo. È anche un'occasione per riavvicinare Vaticano e Turchia dopo la crisi diplomatica sull'Armenia. Proprio di questo Ravasi ha parlato con la nostra Katia Caramelli al suo microfono. Sentiamo. Questa è stata un'occasione direi inattesa, perché anch'io non avevamo contatti precedenti, anche perché per ora sono un po' sospesi direi i contatti diplomatici con il richiamo dell'ambasciatore. Questo vice primo ministro ha fatto questa dichiarazione che io ho raccolto subito. Io certamente durante questi mesi avrò l'occasione di visitare, andrò senza imbarazzo a visitare il padiglione della Turchia, abbiamo già ricevuto tanti inviti peraltro, e bisogna anche dire che io ho esplicitamente invitato la delegazione turca a venire nel padiglione, anche perché dicevo ci sono degli elementi che sono comuni. Pensiamo che cos'è ad esempio non solo la carità che è propria anche della religione musulmana, ma pensiamo anche alla questione del digiuno. Il digiuno non è semplicemente una dieta, non è semplicemente una tensione dal cibo, e invece tutto ciò che tu non consumi lo devi dare al prossimo, e questo è nell'interno delle cinque colonne, una delle cinque colonne della fede islamica. E infine anche non dimentichiamo che non di solo pane è idealmente anche un messaggio che può lanciare il mondo musulmano, dicendo che non si vive solo di cibo ma anche della parola divina. Traffico